Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Anche noi del coordinamento lesbiche romane ci uniamo agli auguri a Simona, quindi tanti auguri anche da parte nostra. Come è nostra consuetudine, purtroppo sta succedendo sempre più spesso, anche la nostra replica va in diretta per problemi tecnici. E quindi praticamente adesso io e Rosina rifacciamo il replay della settimana scorsa, però avete l'opportunità di sentire la nostra stupenda voce in diretta. E quindi ancora una volta buonasera a tutte, questa è la nostra trasmissione 114, stasera siamo Caterina, che sarei io, non so, ormai dovreste riconoscermi, sono una veterana del gruppo a fare le trasmissioni e con me c'è Rosina ed è con grande piacere che salutiamo anche tutte coloro che ci stanno ascoltando tramite internet e che ci hanno anche inviato delle email molto, molto graziose. In realtà siamo noi che ringraziamo voi e come ormai è nostra consuetudine vi sollecitiamo ad inviarci ancora i vostri contributi di qualsiasi genere si siano. A noi va bene tutto. Ciò che infatti ci preme è che ognuna di voi arrivi a sentirsi libera di dire la propria, dalla poesia alla musica, dalle considerazioni personali sugli avvenimenti alle esperienze di vita, dalla segnalazione di iniziative alla recensione di film o libri, insomma tutto quello che vi viene in mente. E a noi va bene tutto. Dunque, nella trasmissione di oggi vi parleremo della papessa Giovanna e di una singolare esperienza che ci ha gentilmente fatto avere Angela, che anche lei è una veterana, ci manda sempre dei contributi molto molto graziosi. Dicevo, una sua esperienza fatta durante un corso di aggiornamento per il personale sanitario della USL di Frosinone, quindi non rubo altro tempo, adesso mi prendo soltanto 2 secondi per mettere un disco che chiaramente le mie competenze tecniche mi hanno fatto dimenticare di prepararlo, quindi ascoltate in sottofondo Nina Simone, io poi metterò il brano di Melissa Etheridge, Your Leader Secret. I'm a dapper dream. Bene, allora adesso andiamo a leggere questa esperienza che ha fatto Angela e che ci ha gentilmente mandato. Allora, venerdì 8 dicembre, presso un'elegante struttura privata accreditata, il Dipartimento Materno-Infantile dell'azienda USL di Frosinone ha organizzato un seminario dal titolo «L'educazione sentimentale e psicosessuale dell'adolescente». L'uditorio era formato da psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti, personale per la maggior parte operante nei consultori familiari. Il seminario è inserito in un più ampio corso di formazione, dato che a breve dovrebbero essere aperti nei consultori familiari di Frosinone degli spazi dedicati agli adolescenti. Ascolto la relatrice, una psichiatra, un po' distrattamente, mentre cerca di definire ciò che poi sarà più chiaramente individuato come adolescente. L'impostazione è quella classica, freudiana, con l'Edipo che la fa da padrone. Poi, dopo aver analizzato la relazione tra le figure genitoriali e l'adolescente, la relatrice descrive le prime pulsazioni sessuali soddisfatte con la masturbazione. La masturbazione, cioè provocarsi piacere sessuale, porta con sé la spiacevole conseguenza di un pungente senso di colpa in chi la pratica. Ma, spiega la psichiatra, mentre i maschi sono protetti da una sorta di ombrello sociale, per le femmine il giudizio, si sa, è assai negativo. E fin qui nulla di nuovo. Ma le femmine, come reagiscono al senso di colpa dell'autoerotismo? Ma innamorandosi del maschio, naturalmente. Ne deduco subito che gli analisti freudiani restano dei meri normalizzatori sociali. Infatti, e ciò è una prova concreta di analisi, non si chiedono perché le femmine sono costrette ad innamorarsi per provare piacere ed il maschio dovrebbe essere il fine ultimo del loro desiderio. I rapporti sociali normali, infatti, da che mondo è mondo, vanno avanti così. Persino dai tempi di Freud, quindi, che necessità c'è di porsi qualche interrogativo in più? Ma la relatrice narra affabilmente anche del desiderio, sempre per gli adolescenti, di avere relazioni omosessuali e lesbiche. Va a suo merito l'aver pronunciato il termine lesbiche, ma ahimè, ascoltando le sue affermazioni, ho iniziato ad avere i soliti sintomi di agitazione psicomotoria che si sono espressi con tachicardia, vasta e abbondante sudorazione, irritazione e conseguente normale esplosione di rabbia. Il ragionamento è il solito. Gli adolescenti frequentemente hanno desiderio di avere relazioni con lo stesso sesso. Quando se ne accorgono, si spaventano moltissimo, ma fortunatamente i loro comportamenti affettivi rientrano di lì a poco nella norma, quindi bisogna stare attenti a fare delle diagnosi. Musica per le orecchie di un pubblico che per la maggior parte era composto da individui ed individue piccole borghesi, la cui smanie principali sono quelle di fare carriera fottendo colleghi e colleghe. Fortunatamente è arrivata la pausa al caffè e ho pensato di scambiare qualche opinione con la relatrice. A partire dal termine diagnosi, ha convenuto con me che da quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha tolto dalle categorie diagnostiche, persino Freud si è dovuto mettere l'anima in pace e si è impegnata quindi a rettificare il suo lapsus alla ripresa dei lavori. E così è stato. Ha semplicemente specificato che l'omosessualità non rientra più nelle categorie diagnostiche della perversione sessuale e ha mostrato tutta la tolleranza di cui era umanamente capace. Devo dire che mi ha fatto tenerezza, anche perché al termine dei lavori mi ha cercato per chiedermi se ero rimasta soddisfatta della pubblicazione e della pubblica precisazione. Solo allora le ho mostrato il questionario finale, cui ci sottopongono come verifica di apprendimento e precisamente la domanda numero 8 che recita, aperte virgolette, Che ruolo possono avere i problemi di coppia dei genitori sulla psicopatologia dei figli adolescenti? Una delle risposte possibili era la seguente, riaperte virgolette. Influiscono nei processi di interiorizzazione della coppia genitoriale fondamentale per la costruzione dei rapporti con l'altro sesso. Tra poco vi farò un breve sunto della nostra conversazione a seguire. Allora io ho detto, lo vede che sono considerati solo i rapporti eterosessuali? Relatrice, sì, ha ragione. Io, ma come può vedere, ho corretto la risposta cancellando la dicitura con l'altro sesso, scrivendo al suo posto affettivi e di coppia. Mi sembra che sia meno discriminante. Relatrice, sì, è vero, i problemi di coppia dei genitori possono incidere sull'affettività globale dei ragazzi, ma non mandi questo questionario così corretto, perché va a Roma, al Ministero, potrebbero non darle i crediti per la formazione di oggi. Io, non si preoccupi, vorrà dire che polemizzerò anche con il Ministero. I crediti di cui la relatrice faceva riferimento sono quelli relativi alla formazione obbligatoria che il personale sanitario è tenuto a fare. Io, come al solito, di obbligatoria vedo soprattutto l'eterosessualità, ma ho voluto replicare almeno contro le categorie diagnostiche. Infatti, nella vita di tutti i giorni ci accontentiamo di lottare contro il solito disprezzo sociale. Un'ultima domanda, ma la scienza è neutrale? Con buona pace chiaramente per il 68. Quella che state ascoltando è Janis Joplin e siccome molto spesso a noi ci prendono per matte, beh, nessun titolo più appropriato di questo, Cry Baby. I know you got more tears to shed, man. E allora, in questa trasmissione abbiamo più volte parlato di donne illustri, ma spesso sconosciute e più, donne che la storia ricorda più come una sorta di impressione che come persone realmente esistite. E soltanto grazie al lavoro paziente di alcuni biografi, oggi ne resta qualche traccia che ci aiuta a capire chi queste donne fossero e qual era il contesto nel quale si muovevano, quali resistenze incontravano e come riuscivano a sopravvivere schiacciate sotto il peso del pregiudizio e della convenzione. Il peso dell'assenza e la negazione sono condizioni che le donne sperimentano più frequentemente degli uomini. Ancora oggi esse sono tenute infatti ai margini dei processi politici, di quelli culturali, economici, e quelle che riescono ad ottenere con fatica il riconoscimento delle loro qualità e capacità sono piuttosto rare, tanto da sollevare un certo clamore. E chi di noi non ha mai sentito ad esempio l'espressione stupita, accidenti, una donna capo dello Stato? Noi stesse, senza stupore magari, avremmo potuto usarla. Certo, a condizione che la donna in questione non fosse un'emula della esimia collega Margaret Thatcher. Ma, insomma, che cosa succederebbe se una donna divenisse o fosse già stata capo della Chiesa? Non capo dello Stato, capo della Chiesa. Voi direte impossibile, forse vi risponderemo, o forse no. La storia che vi racconteremo stasera è una storia piuttosto particolare, una storia di silenzio, di negazione, di rimozione, una storia di mito, di favole, di leggenda, eppure, udite udite, una storia in odore di verità. Ed è una storia che ha le sue radici in un medioevo lontano, la storia del monaco Giovanni Anglico che dal monastero di Fulda salì al soglio pontificio, ed è una storia, come abbiamo detto, cancellata, messa a tacere, insabbiata. È la storia di Giovanna di Ingelheim, l'unica donna che varcò il sacro recinto e sedette sul trono di Pietro. No, it may mean that I'll never kiss those sweet lips again. La papessa Giovanna è uno dei personaggi più affascinanti della cultura occidentale, ma anche uno dei meno noti. Parlare di lei significa muoversi in un ambito teorico dove i riscontri sono difficili da individuare e dove l'opera di rimozione non lascia molto spazio alle possibilità. Nonostante tutto, ancora oggi esistono centinaia di documenti e di prove circostanziali a favore del papato di Giovanna, ma la Chiesa Cattolica vi si è sempre ferocemente opposta, ottenendo come risultato la scomposizione di questa figura in una serie di piccoli episodi leggendari. Cercheremo stasera, nei limiti del possibile, di sfatare la leggenda e attraverso il racconto di una serie di eventi proveremo a restituire la giusta veridicità alla figura e alla storia di Giovanna. Se la maggioranza delle persone che ne hanno sentito parlare oggi considera Giovanna una leggenda popolare, in realtà fino al secolo XVII, quindi fino al 1600, il suo papato, che in linea teorica dovrebbe aver avuto luogo tra la fine del regno di Leone IV e l'inizio di quello di Benedetto III, presumibilmente fra l'anno 855 e l'857 d.C., era universalmente noto e riconosciuto come autentico. Fu proprio in quegli anni, intorno al 1600, soprattutto sotto la spinta del protestantesimo, che la Chiesa intensificò i suoi sforzi allo scopo di distruggere le imbarazzanti prove dell'esistenza di Giovanna, requisendo centinaia di libri e manoscritti che vi facevano cenno. E fu questo un lavoro di revisione minuzioso e concertato, la cui efficacia è ben dimostrata dalla quasi totale rimozione del Papa femmina dalla memoria collettiva. L'assenza di riferimenti a Giovanna nei documenti contemporanei costituisce l'elemento essenziale addotto dai cattolici per confutare l'esistenza del suo papato. D'altra parte, per sua stessa ammissione, fu proprio la Chiesa a cancellarli, insieme a tanti altri, considerati pericolosi per la dottrina e i suoi dogmi. Inoltre, il fatto di essere vissuta nel IX secolo, senz'altro negli anni più terribili della storia, non ha giovato alla conservazione della sua memoria. Di quel periodo, caratterizzato da analfabetismo e carenza di documenti, ci restano oggi pochi scritti sparsi e contraddittori. Se si eccettua una discutibile opera storiografica, il Liber Pontificalis, che molti considerano un documento propagandistico, non esiste alcuna documentazione continuativa dei papi del IX secolo. Nella copia originale di quest'opera non si fa menzione del papato di Giovanna, il che non è strano se si considera che per semplice distrazione, oppure per incuria dei biografi, anche personaggi assolutamente in linea, quindi né scomodi né imbarazzanti, finivano con l'essere omessi dai documenti. Ma se non risulta nell'originale, il nome di Giovanna appare però in una antica copia dello stesso Liber Pontificalis. Con ogni probabilità, un annalista successivo, convinto da cronache più affidabili, può essersi sentito in dovere di correggere il documento ufficiale. Comunque non è difficile capire per quale motivo il nome di Giovanna sia assente dai documenti dell'epoca. Provate ad immaginare l'orrore e l'imbarazzo degli ecclesiastici romani per l'inganno subito. Da soli sarebbero stati una ragione sufficiente ad eliminare le prove scandalose dell'esistenza del Papa femmina. E c'era poi un'altra ragione di ordine economico-utilitaristico. Se un papato veniva invalidato, come avrebbe potuto esserlo quello di Giovanna, naturalmente per ovvi motivi, tutte le nomine del papa deposto venivano annullate, così come decadevano tutti gli effetti e i benefici per gli ordinati. Non sorprende quindi che i documenti trascritti o conservati da quegli stessi uomini non rechino traccia di Giovanna. Questo infatti avrebbe comportato per loro la perdita di molteplici privilegi. Ma se Giovanna è scomparsa dalla documentazione ufficiale, nei secoli successivi non si ha certo scarsità di atti che ne riportino notizia. Lo storico tedesco Spanheim, ad esempio, cita in uno studio approfondito non meno di 500 manoscritti antichi contenenti tracce del suo papato. La Chiesa cattolica, tende a considerare Giovanna una invenzione dei riformatori protestanti, a dimostrazione della corruzione papista. In realtà, però, la storia della papessa apparve per la prima volta centinaia di anni prima della stessa nascita di Martin Lutero. Molti dei suoi cronisti erano cattolici, spesso di elevato livello gerarchico. La statua di questa papessa si erse incontrastata nella cattedrale di Siena fino al 1601, quando subì una improvvisa quanto sospetta metamorfosi nel busto di Papa Zaccaria. Per continuare, nel 1276, dopo aver commissionato uno studio nei registri papali, il Papa Giovanni XX cambiò il suo nome in Giovanni XXI, riconoscendo quindi il papato di Giovanna, che regnò con il nome di Giovanni VIII. Infine, la storia di Giovanna rimase inclusa per più di 300 anni nella guida ecclesiastica ufficiale di Roma ad uso dei pellegrini. Già queste prove dovrebbero essere sufficienti a testimoniare l'esistenza di Giovanna, ma potremmo anche continuare citando il ben documentato processo per eresia a Janus nel 1413. Janus, processato per avere predicato la dottrina eretica della fallibilità papale, aveva portato a sua difesa l'esempio di molti papi che avevano peccato contro la Chiesa. I suoi giudici, tutti ecclesiastici, confutarono tutte le sue tesi, tacciandole di blasfemia. Ma quando Janus citò il nome di Giovanna a sostegno della sua difesa, nessuno dei 28 cardinali, 4 patriarchi, 30 metropolitani, 206 vescovi e 440 teologi presenti al processo osò controbattere la sua affermazione. Ma se anche questo dovesse sembrare insufficiente, esistono fatti particolari, difficili da spiegare, se non con l'esistenza di un papa donna. Un esempio è costituito dal famoso esame della sedia, che per quasi 600 anni fece parte del cerimoniale di investitura papale. Ogni pontefice, dopo Giovanna, doveva sedersi sulla sella stercoraria, una particolare sedia con un foro nel mezzo, come una latrina, che serviva per l'ispezione dei genitali. L'esaminatore aveva il compito di informare il pubblico ad esame avvenuto con la formula latina mas nobis nominus est, vale a dire il nostro candidato è un uomo. La Chiesa naturalmente non nega l'esistenza e l'uso della sedia, anche perché ancora oggi a Roma, nei Musei Capitolini, ne esiste un esemplare. Ma sostiene che essa veniva impiegata solo per la sua imponenza e la sua squisita fattura, e che il fatto che vi fosse un foro nel mezzo era del tutto irrilevante. Io sono andato a vederla, la sedia, insomma, non è che sia effettivamente un capolavoro artistico. Dunque è chiaro che questa sedia, questo tipo di sedia, veniva impiegato come latrina o tutt'al più come una sedia ostetrica. È possibile che un oggetto preposto ad usi tanto volgari venisse usato come trono papale senza un ottimo motivo? La ragione appare ovvia quanto evidente. Un'ulteriore prova dell'esistenza di Giovanna, inoltre, è data dalla cosiddetta via scansata. L'antica residenza dei papi, il Patriarchio, si trovava a San Giovanni in Laterano, mentre la Basilica di San Pietro era situata dalla parte opposta di Roma. Le processioni, quindi, viaggiavano con una certa frequenza tra questi due luoghi, passando per la strada più breve, detta Via Sacra. Per chi abita a Roma, oggi questa strada si chiama Via di San Giovanni in Laterano. Secondo le cronache, fu proprio qui che Giovanna diede alla luce un bambino nato morto, e subito dopo le processioni papali deviarono deliberatamente dalla Via Sacra, proprio in orrore di questo fatto. La Chiesa obietta che la Via Sacra non fu più utilizzata perché divenuta insufficiente a contenere il gran numero di partecipanti alle processioni, tanto che nel XVI secolo Sisto V dovette procedere al suo ampliamento. Tuttavia, però, già 100 anni prima, nel 1486, Giovanni Burchard, un vescovo di Orte, scriveva nel suo diario di come il pontefice si fosse attirato le ire del clero per avere fatto passare il corteo papale lungo la via dove Giovanni Anglico partorì un bimbo morto, dimostrando così come la strada, ancora prima del suo ampliamento, fosse sufficiente a contenere la folla, e smentendo quindi l'affermazione della Chiesa Cattolica. Ci fermiamo un attimo e mandiamo una canzone, Nothing Compares to You di Sinéad O'Connor. Sleep on. Naturalmente, nonostante tutte queste prove, nessuna di queste prove può renderci la certezza matematica dell'esistenza di Giovanna. Quindi non sapremo mai che cosa accadde nell'855, nell'anno in cui ella divenne forse pontefice. A noi però piace pensarla come un personaggio mitico ma reale che, in un'epoca terribile seppure sotto mentite spoglie, sceglie e conquista una libertà insperata, diventando così un simbolo per tutte le altre donne che non ebbero mai voce. Come lei, altre donne scelsero la via mistica per divenire padrone del proprio destino e anch'esse, come Giovanna, sono rimaste pressoché sconosciute. L'esistenza storica del fenomeno del travestitismo, d'altro canto, è dimostrata dalla condanna che il Concilio di Gangra lanciò contro le donne che si tagliavano i capelli e indossavano panni maschili. Lo stesso Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, a riprova dell'autenticità di questo fatto, sosteneva di non approvarle, ma di non considerare per niente abominevole la pratica di certe donne di imitare davanti a Dio la natura del sesso migliore. Di queste donne ci resta solo qualche nome, come Pelagia, Anastasia, Susanna, Apollinaria, Atanasia, Anna la Giovane, Matrona, Teodora d'Alessandria, ce ne sarebbero moltissime altre, ma l'elenco è lungo. Tutte queste donne abbandonarono il mondo secolare per rifugiarsi in conventi maschili dove la libertà concessa era senz'altro maggiore. Fondarono ordini e nuovi monasteri e solo alla loro morte si scoprì che erano donne. Non sembra strano che le donne decidessero di mascherarsi da uomini, se è vero, come ci raccontano le cronache, che in quegli anni l'istruzione delle donne era scoraggiata, ritenuta addirittura contro natura, per di più pericolosa. Si credeva, ad esempio, che il sangue mestruale rendesse aceto il vino, sterili i campi, che smussasse l'acciaio e arrugginisse il ferro, che avvelenasse le ferite, una sorta di arma chimica praticamente. Le donne erano considerate eterne minorenni, prive di diritti reali e giuridici, per legge potevano essere battute dai mariti e lo stupro, ad esempio, era considerato una forma minore di furto. I padri della Chiesa, questi signori come San Paolo oppure Tertulliano, scrivevano delle donne: e sai che tu sei Eva? Tu sei la porta del diavolo, la traditrice dell'albero, la prima rovina della legge di Dio. Tu sei colei che seduce chi nemmeno il diavolo osa avvicinare. A causa della morte che tu meritavi, perfino il figlio di Dio doveva morire. Che bei presupposti. Ad ogni modo, né la storia né la leggenda ci raccontano come finì l'avventura della papessa Giovanna. Quel poco che ci resta di lei possiede una consistenza evanescente, è come il guizzo di un'idea sfuggente, appena percepita, subito messa a tacere da una forza più grande, ma certamente non più giusta o più saggia, una forza violenta che dietro la maschera lucente del perdono e della redenzione nasconde il ghigno feroce dell'intolleranza, dell'odio e del disprezzo, comune da sempre a tutte le monarchie assolute, a tutti i regimi, a tutte le chiese, ancora oggi come 1000 o 2000 anni fa. Non possiamo fare moltissimo per la papessa Giovanna, a parte questo piccolo contributo per ricordarla, insomma per riportare la memoria ai giorni nostri, però possiamo magari scusarci, non per quello che abbiamo detto noi, ma per il modo in cui Giovanna, così come tantissime altre donne, è stata cancellata. E quindi mandiamo Sorry di Tracy Chapman e chiediamo scusa. me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. E io prendo in prestito la voce di Tracy Chapman e me la tengo come sottofondo per ricordarvi che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87.900 MHz. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50, a proposito grazie dei trillini, fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista al Buon Pastore ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64201. Questo è un telefono fax e segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. E per le informatizzate ricordiamo la nostra email che è contatti@clrbp.it e il nostro sito web che è www.clrbp.it. Il tempo a nostra disposizione sta quasi per scadere, allora ripeto soltanto il nostro classico appuntamento di Les Bollywood. Questa settimana, cioè giovedì alle ore 21, verrà trasmesso il film The Girl. If you miss me. La regista è Sue Zeig, è la compagna della compianta Monique Wittig, quindi vi aspettiamo tutte per dare questa sorta di tributo. Ma io a proposito di Les Bollywood sento l'esigenza di dire alcune cose, perché è da un po' di incontri che purtroppo alcune donne, poche, pochissime per la verità, ci avanzano delle critiche rispetto alla nostra programmazione, in particolare sulla scelta delle pellicole. Ci tengo a ribadire il concetto che noi non facciamo alcuna censura, né tantomeno siamo un festival di cinema specifico. Ricordo che noi, cioè il Coordinamento Lesbiche Romane, noi siamo un gruppo politico che ha scelto tra i suoi obiettivi quello di propagandare cultura lesbica. Ripeto, non siamo una sala cinematografica che proietta film di cassetta. Ci sono molti modi di mettere in scena il lesbismo, molti che passano attraverso anche la rappresentazione di un atto amoroso, sicuramente. Ma la strada può avere anche implicazioni sociali, emozionali, culturali, storiche. Può passare attraverso il pregiudizio, i preconcetti, i cliché. Per noi è importante far vedere come ci rappresentiamo, ma anche come ci rappresentano. E se questo scaturisce dibattito, ben venga, perché è proprio quello ciò che cerchiamo, riflettere. Riflettere è una modalità molto importante da non considerarsi mai secondaria a nulla. Siamo consapevoli che il messaggio che volevamo far passare è sicuramente arrivato, è arrivato a destinazione. Se molte donne continuano a venire ai nostri incontri, significa che c'è una condivisione di intenti. Vi aspettiamo quindi al nostro prossimo appuntamento di giovedì, dove, ripeto, proietteremo il film The Girl di Sue Zeig. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del Coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that. Something's got a hold on me, yeah. E come al solito questa sigla era una finta, non ve ne andate perché noi staremo insieme fino alle 10. Questa è una canzone che Annalisa, la nostra componente del gruppo, ha detto che le piace tantissimo, e siccome ogni suo desiderio per me è legge, senza implicazioni di sorta, Rosina, è inutile che fai quella faccia. So confused, my heart's bruised. Mi pare che la stai abituando un po' troppo bene, Annalisa. Ma è la nostra amichettina. Ma quando mai? Ma dai, ci ha pure fatto. Io sono convinta, io lo devo dire. Mi dispiace pensare questa cosa, però temo che tutti i trillini che ci arrivano siano tutti di Annalisa. Ditemi che non è vero, fatemi sentire qualche trillino, dai, fatemi capire che non è Annalisa che ci fa i trillini. Catch myself from despair. I could drown if I say. Questa è proprio Annalisa, grazie, che ci sta ascoltando da casa. No, grazie a chiunque abbia fatto il trillino. A proposito, questa è Gabrielle con il brano Out of Reach, e grazie ancora per i trillini, va bene Annalisa, non ti sprecare così, stai spendendo un sacco di soldi. So far, you never came. E sulla parte finale di questa canzone, dove alla faccia di Rosina ci sono arrivati molti trillini e io sono convinta che non è solo Anna Lisa, vi voglio rileggere un'intervista che ha rilasciato Skin, che è la cantante degli Scancanensis, ed è molto carina perché ha affermato: scrivete qualsiasi cosa di me, ma non che sono eterosessuale. Allora, Skin è la cantante, ripeto, del gruppo rock molto, molto famoso, molto bravo, a me piace moltissimo. E nell'intervista Skin, che tra l'altro pare e dicono ami una ragazza milanese, Skin continua affermando: in amore non tradisco, non per convinzione morale, ma perché non mi piacciono le complicazioni. Nelle sue canzoni si parla di sesso e di politica. Certo, più che il suo pensiero, purtroppo, fa moda il suo cranio rasato. Gli stilisti, infatti, vorrebbero che lei diventasse una modella, che passasse il tempo a fare su e giù con vestiti bellissimi e improponibili anche. Infatti Versace e Gautier l'hanno contattata perché prendesse parte alle loro sfilate. Lei però smentisce queste voci sul suo conto e ribadisce: io canto in una rock band e non ho intenzione di sfilare, anche perché sono troppo vecchia. Ho assistito solo a una sfilata di Versace e, dico la verità, più che i vestiti ho guardato le modelle. Quella che state ascoltando invece è Garbage con il brano Androgyny. Parliamo di sport, visto che lo sport è così importante in questo paese. Naturalmente non parleremo di calcio, ma parleremo invece di hockey su ghiaccio e parleremo di una prima volta da parte di una ragazza canadese, che però giocherà appunto ad hockey su ghiaccio in Finlandia e soprattutto lo farà prima donna in assoluto, pensate un po', in una squadra maschile, una squadra da un nome improponibile e impronunciabile. Sono i Kirkkonummi Sanomat, la terza serie. Non so che cosa sia la terza serie, se è una serie A, una serie B, una serie C, non ne abbiamo idea, siamo un po' ignoranti in termini di hockey su ghiaccio e su erba, indifferentemente. Dunque, lei si chiama Ailey Wickenheiser, ha 24 anni, 1,75 m di altezza per 77 kg, beata lei. E noi abbiamo delle misure un tantino diverse. Abbiamo le stesse messe in posti diversi. Noi abbiamo, che ne so, 82 di caviglia, per esempio. 127 di circonferenza al braccio. Dunque, la fanciulla in questione, abbiamo detto, ripetiamo il nome, si chiama Ailey Wickenheiser. Ha superato un provino nel quale, secondo il coach di questa squadra, Matt Hagman, ha mostrato di essere più brava dei giocatori maschietti, naturalmente, e pronta a reggere i colpi più duri. Non lo mettiamo in dubbio, dal momento che Ailey è stata medaglia d'oro alle Olimpiadi dello scorso anno a Salt Lake City scusate se è poco, e naturalmente lei ha detto che avrebbe voluto giocare in una squadra italiana, ma le norme lo vietano, guarda un po' che strano. Ma no, giura. Io prima ho fatto un po' di confusione con il telefono, perché giustamente un'ascoltatrice, e non era Annalisa, sottolineo, ci ha giustamente fatto notare che noi abbiamo detto che facciamo sì l'iniziativa di Les Bollywood, ma non abbiamo dato l'indirizzo. Allora, probabilmente per noi poteva essere scontato, in realtà giustamente non è così. Allora, noi facciamo questa iniziativa di Les Bollywood all'interno della Casa Internazionale delle Donne, nel centro femminista separatista in via San Francesco di Sales 1B. Ricordo anche che l'ingresso è riservato alle sole donne. Allora, grazie per questa comunicazione che ci ha dato la possibilità di dare l'indirizzo giusto, e su queste note, che sono quelle di Anastasia, il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento alla settimana prossima, non con la replica della replica della replica in diretta, ma con una nuova trasmissione, nuova di zecca. E quindi ciao a tutte, buon proseguimento di serata. Se Simona ci sta ascoltando, di nuovo tanti auguri anche a lei, e alla settimana prossima. Ciao.